Radio Beograd, prvi program. Radio Zagreb, Sarajevo, Titograd i Novi Sad. Veselo veče. Za službena putovanja koristite prednosti prevoza avionima JATA. Novo imenovanog, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sovjetskog saveza Jugoslaviji. Sve mladiće volim, kako da odolim. Zeleno tražim. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. Utakmica između Partizana i Hajduka. Raz, dva, tri, majčeki! Plamene zore, Balkan Rock, Udeberista, Sumaj Radio, Fabrična jutra, muzika, pop kultura e curiosità dal mondo jugoslavo. Buonasera, Balkan Rock. Buonasera, buonasera. Martedì 29 aprile. Ancora un paio di giorni e festeggiamo il primo maggio. Provi mai. Buon primo maggio. Stretch and provi mai. Prima. Dopo una settimana che non ci sentiamo più, comincio a intrecciarmi la lingua. Innanzitutto, insomma, salutiamo i nostri radioascoltatori. Ci scusiamo per non esserci stati la settimana scorsa, che abbiamo avuto dei problemi. Senza avvisare, per di più. Esatto, siamo brutti e cattivi. Potete anche insultarci sul nostro gruppo, che ricordiamo. Adesso non esageriamo. Vabbè, tanto chi ci insulta noi lo cancelliamo, perché non siamo democratici per niente, quindi va bene tutto. Il nostro gruppo lo ricordiamo su Facebook, Balkan Rock at My Radio, oppure potete scriverci anche sul nostro account di Twitter, Balkan Rock _. Bene, stasera una puntata tutta dedicata agli anni 80, soprattutto al pop, al synth pop, ai suoni sintetici, alle melodie facili e sbarazzine. Andremo a sentire un bel po' di roba interessante. Sentiremo Jana, sentiremo il gruppo Talas, sentiremo chi altro sentiremo? Come sentiremo si Dennis e Dennis. Dennis e Dennis, ecco, resuscitati recentemente, l'anno scorso hanno fatto una tournée, questo duo. Mi stanno venendo i pantaloni a zampa, così. Ma cosa c'entrano i pantaloni a zampa con gli anni 80? Come cosa c'entrano? Non c'entrano. Sono dei rimasugli degli anni 60-70. Appunto, che c'entrano con gli anni 80? Che i pantaloni si portavano ben stretti. Cadi su queste cose, sulle basi. Vabbè, ma non ci posso fare niente se tu sei vecchio e io no. Ecco, questa sarebbe la giustificazione. Ma per favore, primo brano, cosa andiamo a sentire? La cosa? Marina Perazic. Lei faceva parte di Dennis. È quello che ha fatto dopo che si è sciolto il duo Dennis e Dennis. Sì, la sua carriera da solista. La super bionda Marina Perazic. Ma ha fatto qualche film erotico, che tu sappia? No, non so. Questo dovresti saperlo tu, mio caro. Non lo so, qualcosa. Frammento di memoria su questa cosa. Non so, chiederemo a Google fra poco. Intanto ci andiamo ad ascoltare di Marina Perazic Colacici, una delle mie canzoni preferite, Dolcetti. Yeah. Abbiamo sentito Marina Perasic in carenza d'affetto, parla del fatto che si mangerà tutti i dolcetti e diventerà grassa. Beh, però comunque era una gran sex symbol. Sì, senz'altro, Marina Perasic, sì, diciamo che le sue curve stavano dove dovevano stare con tutti i dolcetti che si mangiava in questa canzone. Sì, non faceva parte ancora del modello anoressico. C'era qualcosa che si sentiva un po' male, o sbaglio? Se qualcuno ci desse un feedback, riusciamo a capire se forse era soltanto questo MP3 che non andava bene. Chissà, sono i misteri della diretta. Intanto volevo dirvi che Marina Perasic, questo cognome evidentemente croato, e anche il nome un pochino, nel, appunto, durante il conflitto degli anni 90, torna a Rijeka. Cioè praticamente va via da Belgrado, dove viveva insomma la sua vita da cantautrice, dopo Denis i Denis, e ritorna nella sua Rijeka. E con ciò? E con ciò niente, volevo dirvelo. Sono tornata all'ovile, vabbè. È tornata all'ovile, come tanti, insomma. Va bene, abbiamo sentito Marina Perasic. Il prossimo brano che andremo a sentire è del gruppo Jana, dal Jana Nimani, questa cantante pop di origine albanese, nata nel 61 a Belgrado, attiva dal 76 all'86, dopodiché anche lei ha abbandonato il paese, se n'è andata in Canada. Jana era figlia di un politico minore, un certo Javid Nimani, appunto albanese del Kosovo. Era lei la frontman indiscussa del gruppo. Diventano famosi nell'82 con album Dodirnimi Kolena, un brano che abbiamo già messo. Sì, l'abbiamo passato, una delle prime puntate, Toccami le ginocchia. Ecco, hanno fatto quindi, no, Dodirnimi Kolena, sì, era il secondo album. Il primo era Loše vesti uz regge za pivsku flašu, quindi le cattive come si può tradurre sta roba? Le cattive notizie insieme al reggae da bottiglia di birra, insomma, era un po' punk suona sta cosa. Poi terzo album Natrag Navoz, indietro sul treno dell'83, infatti questo brano che andremo a sentire proprio di quell'album lì. Quindi dopo tra 85 e 86 inizia una carriera solista, registra un album in Svezia, partecipa al Messam Festival, un festival della canzone pop appunto dell'ex Jugoslavia, e era tosta. Ci piace Jana, insomma, ci piace un sacco, diciamo che ci piace un po' tutta questa puntata, Io sono una cultrice un po' di questo tipo di pop disimpegnato, però comunque all'avanguardia. Bene, direi che ci andremo a sentire questa Mladi Chumoy, Ragazzo Mio. Now fai, Gianna? Scusate, non ce la potevo fare perché è tutto il pezzo che ha microfoni chiusi qua in questa stanza. Io e Dusko. Si fa canticchiare questa canzoncina. In pratica, Gianna parla del fatto che molla il suo fidanzatino a cui piaceva fare troppo il fighetto. Dice: sei appunto troppo un fighetto per me. Quindi, ciao. Il problema è tuo se sei troppo figo. Esatto. Grande Gianna. Ci piace. Non ha niente da invidiare alle grandi hit, ai grandi hit degli anni 80, ai Duran Duran, adesso un momento, chi altro si potrebbe Madonna citare? Ma non è proprio quel genere, però vabbè, sì, la prima Madonna, i primissimi album. Benissimo, allora, cosa abbiamo? Il prossimo gruppo si chiama Né chi to vuole vruce, a qualcuno piace caldo. Ma cos'è? Il titolo di un film? Forse stanno parafrasando, è quel film con Jack Lemmon e Marilyn Monroe? Adesso io non so esattamente quali siano i... Penso che sia quello che alla fine dice nessuno è perfetto. Quando... Può darsi. Sì, credo che sia quello. Dovremmo interpellare i nostri amici di Occhio sul Cinema. In ogni caso, appunto, Né chi to vuole vruce, il pezzo che ci andiamo ad ascoltare si intitola Teška vremena, Tempi difficili, dall'album dell'86, album che si intitola Jeans Generazia, la generazione dei jeans. Un altro super mega hit. Yeah. chi to vole vruce, Teška vremena dall'album dell'86, Jeans Generazia. E allora mi ritornano i jeans a sigaretta. Jeans a sigaretta vanno già meglio sicuramente dei jeans a zampa che dicevi prima. Comunque io negli anni 80 ce l'avevo i jeans a zampa, ragazzi. Vabbè, erano i rimasugli d'armadio. Erano i rimasugli d'armadio, esattamente. Che hai ereditato da qualche cugino più grande o qualcosa del genere. L'importante era avere i blue jeans. Ma è blue jeans, non necessariamente, si portavano anche i pantaloni, come si chiamano quelli stretti? A sigaretta, no? No, non a sigaretta, proprio aderenti. Non ne ho idea. Non jeans elasticizzati che portavano i metallari, vabbè, non importa. Comunque si portavano anche belli corti, sopra la caviglia possibilmente. Anche, però dipende anche se eri paninaro, se eri punk, cioè, insomma, adesso non è che possiamo così decidere la lunghezza dei jeans in base all'annata e basta. Vabbè, adesso stiamo parlando però di pop, non stiamo parlando di heavy metal e di punk. Beh, se sì, parliamo vabbè, di jeans pop, tutto. Possiamo dire che erano comunque a vita molto alta, questo lo possiamo dire. A vita alta, sì, su questo possiamo concordare. Ecco. Benissimo. Guarda che ti sta venendo il cappellino alla Jovanotti, fra un po'. Perché alla Jovanotti, che c'entra? Beh, anche Jovanotti era un po' anni 80. Sì, non lo so quando è esordito, alla fine degli anni 80, ragazzino. Sì. Sì, comunque non ce ne frega niente in questo momento di Jovanotti. Torniamo a Belgrado del 1983. Precisamente andiamo a sentire Gruppo Talas, Gruppo Onda. Un gruppo che esordisce sulla compilation New Wave Artistička Radna Akcija, cioè la brigata di lavoro artistica del 1981, partecipano a questa compilation con due canzoni, tra cui una cover, My Boy Lollipop, un grande classico di ska, calypso. Hanno fatto solo un album, purtroppo, appunto del 1983, al quale hanno collaborato alcuni musicisti della scena New Wave importanti, come Bojan Pečar, che per anni poi avrebbe suonato il basso con Ekaterina Velika, purtroppo morto prematuramente nel 1998 a Londra a causa di un infarto. Posso dire che sto litigando con il microfono, volevo renderlo così. Potevi regolare i tuoi conti col microfono prima della trasmissione? No, ci ho provato a regolare i miei conti col microfono prima della trasmissione, ma lui non vuole regolare i conti con me. Te continua a regolare i conti col microfono, io intanto faccio partire il brano, un pezzo Sama da sola, con una vocalist femminile, diventerà una hit. L'album, cioè la canzone, è un mix di pop, new wave, ci sono anche dei pezzi reggae su questo album qua, quindi qua siamo già un po' oltre al pop sbarazzino e disimpegnato, tipico degli anni 80, però questa canzone è molto molto orecchiabile, come potrete giudicare voi stessi. Osjećam te dok dan se budi, dok vršte ptice i dok zvona zvone. Zbog tebe ne znam ni da li postoje ljudi i sve što volim da li s tobom tone. Osjećam to. Uzalud ozivam nebo da mi kaže da sve stvarno i da tako mora. Plašim se da sama nikad neću znati da živim život nekog drugog stvora. Osjećam to. Da mi da li postoje ljudi da tako mora. Plašim se da sama nikad neću znati da li živim život nekog drugog stvora. Carina proprio sta canzone qua dei Talas, un brano del 1983. Sì, tra l'altro senza farlo apposta abbiamo scelto tu pezzi tutti per lo più belgradesi e io gruppi tutti o per lo più croati. È evidente che a me piace il pop croato e a te il pop serbo. Sì, qualcuno potrebbe vederci una questione politica dietro questa cosa qua. E invece no, semplicemente è una questione di gusti musicali. Una questione di sound. Fatevene una ragione. Esattamente, esattamente, proprio così. Benissimo, quindi cosa abbiamo adesso? Facciamo un passo indietro rispetto a Marina Perazic che abbiamo sentito per prima. Abbiamo aperto la trasmissione con come era intitolato? Sfimoi Kolačići. Kolačići, ecco Kolačići. E andremo a sentire il suo vecchio gruppo Denis e Denis che si è riformato recentemente l'anno scorso per una tournée. Ma noi dove eravamo quando hanno fatto il concerto? Non lo so. Perché non mi hai regalato i biglietti? Non lo so, non mi ricordo più, è passato un anno. Va bene, comunque questo è un pezzo del 1984, program tuo computer, dall'album Čuvaj se, un album appunto come sempre, anche questo prodotto dalla Jugoton, Denis i Denis. E qua siamo proprio sul synth pop a manetta. Yeah. Sexy Dennis, Program to a Computer, questa è bellissima, anche questa me la sono cantata un sacco con questa base electro un po' alla Pet Shop Boys, anche loro erano un duo appunto. Dennis. Avevo un CD dei Pet Shop Boys, uno dei miei primi CD. Mi piacciono parecchio, sì, niente male. Mi piacevano anche quando ero ragazzino. Sì, sono il gruppo preferito della, uno dei gruppi preferiti della, del, del popolo gay, Pet Shop Boys. Davvero? Sì, non lo sapevi? No. Che hai un sacco di amici gay, non lo sapevi. Vabbè. Strano. Beh, loro lo sono, sono, cioè almeno il cantante, sì, sono gay dichiarati, cioè hanno fatto outing in tempi immemori. Ho capito. Bene, adesso ci spostiamo verso le sonorità leggermente più cupe. Rimaniamo sempre sul synth pop, però chiaramente synth pop si mischiava, si mescolava alla new romantic, alla new wave, al dark. Andiamo a sentire il gruppo Beograd con la canzone TV o TV o Televisia del 1982, una band attiva per pochi anni, dal 1980 al 1983. Sono tra i fondatori della scena electro belgradese. All'inizio si ispiravano ai Kraftwerk e agli Ultravox. Ljubodrag Buba, la bassista, e al synth, anche tastierista, suonerà anche con il gruppo embrionale di Jana, cioè prima che prendessero il nome della cantante. Quindi si scambiavano i musicisti un po' tra queste band qua dei primi anni 80. A me ricordano un po' i Soft Cell, questi, in particolare in questo brano qua. L'unico album che sono lasciati dietro è Remek Delo, cioè il capolavoro, modestamente, del 1983, prodotto da Saša Habić, uno dei produttori più famosi dell'ex Jugoslavia e certamente più eclettici. Ha prodotto i gruppi da U-Gruppa, che era il classico rock proprio tradizionale, a Rambo Amadeus, che salutiamo. Vabbè, ciao Rammino, nostro ci ascolta. Beh, i nostri ascoltatori sicuramente sapranno chi è, malgrado questo nome un po' strambo così. Poi questo produttore qua, Saša Habić, appunto, ha prodotto anche Zdravko Čolić, che è un cantante famosissimo, mainstream, di canzone. Ciola, sì. E poi ha prodotto un gruppo invece misconosciuto come Luna, un gruppo novosadese dark fondato da Tishma, da questo scrittore, poeta e cantautore novosadese. Scusa, non era il gruppo di Tishma La Strada? Sì, era un alter ego della Strada, cioè si chiamavano Strada e Luna, insomma era un altro progetto suo con alcuni musicisti in comune. Ho capito. Ma è lo stesso giro, la stessa gente. Dopo lo scioglimento, alcuni membri del gruppo Beograd formeranno Berliner Strasse, radicalizzando un po' il suono, ispirandosi un po' di più alla scena post-punk tedesca. Adesso sono un gruppo un po' così di culto, soprattutto per i collezionisti. Tra l'altro una band EBM di niche, Margita Emratva, ha fatto una loro cover, Achtung America. Noi invece andiamo a sentire TV del 1982, gruppo Beograd. Pritiskom na dugme započinješ dan. Pritiskom na dugme ostvaruješ sve sam. Na ekranu je sve što želiš i sve što znaš. Tvoja kutija je prazna, qua siamo ben oltre il classico pop anni 80. Sì, infatti mi stavo addormentando, ho avuto un momento di... Ma per favore, ma smettila, come fai a bestemmiare così? Ma, ho avuto una palpebra calante. Ma insomma, quello che abbiamo fatto fino adesso è solo appena finito di litigare con un antipasqua. Un antipasto, per sentire, cioè, un po' di cose serie, dai. Mamma mia, ragazzi. No, bello, come Nina Nanna, però. Insomma, guarda, proprio discutere di musica con te è tempo perso. Gruppo Beograd, le sonorità più darcheggianti, electropop un po' oscuro. Bene, io direi, cosa abbiamo? Ah, adesso invece cambiamo. No, infatti abbiamo un altro gruppo del genere, quindi ti addormenterai del tutto e mi toccherà concludere la trasmissione da solo. Ma se qualcuno è nei pressi di My Radio, venga a prendermi, sono in studio. Mayday, mayday. Gli ascoltatori daranno ragione a me. Adesso andiamo a sentire Max e Intro, un album del 1985. Siamo sempre sul synth, techno pop, diciamo un po' meno scintillante, meno sbarazzino. Questo gruppo si lascia dietro neanche un album, ma soltanto un 7 pollici. E qua abbiamo detto tutto, eh. Vabbè, ma che cosa c'entra? Che cosa c'entra? Mamma mia! Cioè, questo, quello che facevano Max Intro nel 1985 adesso lo fanno i gruppi famosissimi come Lady Tron, ad esempio. Appunto, è inutile discutere con te. Ma chi è Lady Tron? Un gruppo famosissimo inglese che fa questo retro electropop, utilizzando i sintetizzatori d'epoca. Il gruppo è fondato da Max Mihailovic, nato a Belgrado, proviene da una famiglia di artisti, anche sua madre suonava violino. Questo è un singolo uscito per la casa discografica Peghe per Tebe della Radio Televisione Belgrado. E, purtroppo hanno fatto solo questa pubblicazione che si chiama We Design the Future. E andiamo a sentire il brano Ostavi Sve. Lascia tutto. Lascia tutto. За углом подсечем на тебе и кажем то сам я. Сърце твое ме врати, погледало ме увек плаши. Наше лице чека и за углом. Подсечем на тебе и кажем то сам я. Остави све и остани да пратиш ме. Заборави любове и престани да пратиш ме. Заборави любове и престани да пратиш ме. Заборави любове. Отлази ночи, палим цигару, мрачно лице чека и за угла. Подсечам на тебе и кажем то. Чека и за уба, подсечам на тебе и кажем то сам я. Остави свет. Max, appunto il fondatore di questo, di questa band, tra l'altro è finito in Italia poi alla fine degli anni 80 a far cosa? Cioè, l'allenatore anche lui? No, non si direbbe proprio di no da quello che faceva, che c'entrano gli allenatori, perché è morto il coso lì, come si chiamava, non mi ricordo. Vujadin Boškov. Vujadin Boškov. Sai dove nacque Vujadin Boškov? No, dove è nato? A Begeč. A Begeč, su nella pianura pannonica? Nella pianura pannonica, nelle vicinanze di Novi Sad, il buon Vujadin. Ho capito, non lo sapevo. No, dicevo, è finito in Italia perché si è dato, cioè è diventato il fondatore di un gruppo cabarettistico. No. Sì, che si chiamava Phonics Art. Ti prego, torna. No, no, anzi, l'agenzia che li ha portati in Italia era Phonics Art. Boh, non lo so, si, però è un poverino, è morto anche lui, insomma, tutti morti sempre. Vabbè. Beh, adesso mi tocco tutto quello che ho. Torniamoci tutto quello che abbiamo, vabbè, pazienza. Erano Max Intro. Però questo pezzo 1985. Questo sì. Pezzo mi è proprio piaciuto, devo dire. Vabbè, ma il genere era quello di prima, non è che quello... No, rispetto a quello, a quel pezzo di prima, mi sembra un mi è sembrato un po' meno monotono, o comunque nella sua monotonia molto più ascoltabile rispetto al, al pezzo precedente, che era... Quando ti metti su a fare la critica musicale, guarda, ci crollerà tutto il palazzo qua dello studentato addosso. Va bene. Più o meno come quando tu ti metti a fare le cose pratiche e manuali. Ecco, vabbè, vabbè. Va bene, accetto, infatti. Adesso andiamo a sentire un certo Daniel Popovic. Grande Daniel, che cantava Julie, era, è andato alla Eurovision, la canzone europea, un, questo festival misconosciuto in Italia, che tirava un po' di più negli altri paesi, adesso lo ascoltano, lo considerano un po' più, un po' di più nei paesi dell'est europeo e nei paesi baltici. Julie era arrivato, mi pare, quarto. Esattamente. In quel 1980, cos'era? 6? No, 80, no, 3 forse, anche questa è vecchissima. Non ricordo esattamente, lo sto cercando nella sua biografia. 86. No, era prima. Era prima, sono sicuro, però non so se era 3, 4. Beh, comunque chissà chi era questa Julie. Ma non importa chi era Giulio, quello che importa chi è Daniel Popovic. Lui era montenegrino ed era tutto effeminato, con le labbra lucide, tutto con un po' di tinta bianca, no, in faccia, tutto truccato, ed è stato il primo che ha rotto il luogo comune, che ha rotto il cliché del montenegrino ultra patriarcale maschilista macho man. Sì, però comunque ha rotto tutto questo, ma ha fatto Julie e poi è sparito. Comunque confermo che era nell'83, come dicevi 83, giustamente, sì, tu sì, sì, nell'83. C'è questo video anche girato, tra l'altro, nelle bocche di Cattaro e a Herzegnovi, un video bruttissimo che agli amanti del trash consiglio di andarselo a cercare su YouTube. Però la canticchiavano tutti questa canzoncina qua, Julie. Però povero Daniel non l'ha mai preso sul serio nessuno. Povero Daniel. dai, ci sentiamo giù di così, ascoltatori se ne rendono conto. Finalmente un po' di allegria, ragazzi. Questa è roba che piace a te, vai. Daniel Popovic con questa hit del 1983, con la quale appunto ha rappresentato la Jugoslavia al Eurovision Festival in quell'anno. Come dicevo prima, poi è sparito dalla scena. Leggo qua su Daniel Popovic che dice: una volta rappresentavo la Jugoslavia in Europa e oggi sono un caso sociale, dice, si dichiara un fallito. Non so la fonte se è attendibile, perché sto leggendo su Kurir, un giornalaccio serbo di terza categoria, un tabloid come potrebbe essere il nostro Torino Cronaca, ecco. Sì, però penso che sia tutto falso. Dice il cantante, dopo 10 anni che ha fatto un album nuovo, che dice che le canzoni sono pesanti e autobiografiche, perché la sua vita era così negli ultimi 20 anni. Di nascita montenegrino, si è sposato 4 volte e attualmente vive a Ljubljana con sua moglie, con la quale è sposato da 8 anni, va bene, non è che ce ne freghi molto. Dice che ha risparmiato tutti i soldi che ha fatto con questa hit qua per lasciarli ai suoi figli, e a parte quello non ha nulla, insomma la sua carriera è andata allo scatafascio per vari motivi personali. Secondo me Giulio non gliel'ha data. Non lo so, però sembra proprio un loser. Bene, adesso andiamo a sentire Video Sex, un gruppo sloveno. Continuiamo con pop anni 80. La canzone è Mesec, Luna. Ti Ah, ci scusiamo, c'è qualcosa che non va con questo MP3. Dovremo provare a sentire qualcos'altro. Andiamo a sentire il gruppo Xenia, un altro gruppo croato che sicuramente piacerà a te. Bella scelta, vedi che ogni tanto, guarda, i casini della diretta ci danno una mano, questo è proprio una fortuna. Zove on je tako pažljiv, ja to nisam znao. On daje nježnost, ja je nisam dao. Nju ne tuče, može da oprosti, za ne bi tako stao na put i slomio kosti. Učer, negdje oko 10 sati uvečer. Questi erano Xenia, un gruppo di Rijeka, anche loro. Mi pare che qualche componente di questo gruppo facesse parte della scena punk di Fiume, in particolare del gruppo Paraf, ma di questo parleremo in una puntata dedicata proprio a questo genere, a questo movimento, no? Comunque i croati in questa puntata in particolare hanno vinto 9-0. Se lo dici tu. Sì, sì. Non penso che ci sia una classifica da fare. Siamo giunti alla fine di questa puntata, ormai sono le 22. Quindi siamo costretti a salutarvi, anche perché la playlist si chiude con un altro gruppo misconosciuto che si chiama Shizike. Shizike? da, dal verbo scisiti, znaš šta znači, sai cosa significa scisiti? Nemam pojma. Andare fuori di testa, tipo quando uno non ci sta più dentro. Non ci sta più dentro, esatto. Quindi le ragazze che non ci stanno dentro sono scisiche in realtà. Va bene, allora noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo martedì, sempre puntualissimi alle ore 21 su My Radio con Balkan Rock. Vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook Balkan Rock at My Radio e di contattarci anche sul nostro account Twitter a Balkan Rock _. Vi salutiamo con un pezzo appunto di Shizike, Hula Hop Disco. Una buona serata a tutti e a risentirci a settimana prossima.